Ben ritrovato Tony Allotta. Buon Buon pomeriggio, diciamo, ben pomeriggio. trovato pure a te, Federico. Allora, con te per parlare di un nuovo progetto che riguarda la figura di Pierpaolo Pasolini. Il titolo è Pasolini su Monte Testaccio, archeologia, poesia e memoria. L'appuntamento è a Roma, a Testaccio, nel quartiere di Testaccio, il prossimo 3 marzo. Ci racconti un po', Tony? Sì, allora il progetto nasce insieme a Irene Ranaldi di Ottavo Colle, che praticamente da anni organizza delle passeggiate romane molto interessanti, soprattutto nella periferia. Addirittura Irene ha fatto una petizione per far diventare la periferia di Roma un museo a cielo aperto, quindi raccontando storie e mischiando praticamente le storie che hanno a che fare con l'archeologia, l'architettura tipica della città, con per esempio la lettura di sceneggiature di film girati in quel luogo. Vista che c'era parallelamente la mia performance Come un cane senza padrone, quindi la performance urbana in cui snocciolavamo le cenere di Gramsci in strada, praticamente abbiamo unito le due cose ed è nato questo progetto. Quindi saliremo sul Monte dei Cocci, dove Irene Ranaldi ci racconterà le storie di questo sito, che era una vecchia discarica dell'impero romano e poi adesso è diventato invece quasi l'ottavo colle di Roma, e da là sopra vedremo la città da tutto un altro punto di vista, e io invece mi prenderò la briga, insomma, di snocciolare i versi di Pasolini. Allora, una cosa intanto sul luogo, credo che sia di difficile fruizione durante Allora la sì, settimana. infatti è È chiuso chiuso. normalmente, apre soltanto in determinate date, quindi il comune ci dà delle date e Irene ha accesso al sito praticamente direttamente dal comune, quindi salgono soltanto 30 persone alla volta e il 3 marzo è una di queste date fortunate, quindi da cogliere al volo. Senti, Tony, allora la tua parte sarà dedicata alle ceneri di Gramsci. Principalmente sì, inizierò sempre con la forza del passato, perché è come se fosse una sorta di presentazione di questo personaggio che è ancora presente in città e che dice da dove viene, e poi inizia a interloquire con le persone attraverso il corpo, perché praticamente i resti vengono restituiti camminando, quindi c'è un'azione fisica del camminare insieme che rende particolare la fruizione rispetto a quella di ascoltare, che ne so, i versi in un teatro, in una stanza, in un luogo chiuso. Quindi questa, la città diventa la scenografia. Quindi questo è Ok. un po' il mio compito. E nel complesso con lei come sarà l'abbinamento? E che praticamente Irene fa decenni raccontando un pochino qualcosa sull'associazione, su Ottavo Colle, quindi sulle finalità di Ottavo Colle. Dopodiché racconta la storia di come è nato il Monte dei Cocci. E in una prima pausa io intervengo con una parte di. Salendo io comincio a fare la forza del passato, che è una specie di introduzione, e poi nel primo stop che abbiamo di fronte al panorama del villaggio globale, il mattatoio e tutta quella parte lì, partono le ceneri di Gramsci. Poi c'è di nuovo un intervento di Irene, e poi di nuovo io, cantando canzoni pasoliniane, li porto in cima dove c'è la croce, praticamente, che è famosa perché c'è la foto di Pasolini seduto lì sulla croce che guarda un ragazzo che passa. Finiamo le ceneri di Gramsci, anche Irene conclude con la visione di quella parte di Testaccio e del Lungotevere, di Monteverde che si vede da lontano, e basta, deve durare un'ora perché il comune dà solo un'ora, quindi questo è quello che succede. Però succede molto, in genere le persone vanno via con grande entusiasmo, perché non è la prima volta che la facciamo questa passeggiata. Bene, Tony. Allora, dato anche che seguiamo tutto il tuo percorso relativo a Pasolini riportato nelle strade, volevo chiederti anche di raccontarci brevemente le tappe precedenti e anche un bilancio tuo di come Allora, sta le andando. tappe precedenti sono state: è nata al Mandrione, in un festival organizzato proprio dal Trenta Formiche per Pasolini. Quindi si partiva dove c'era, ahimè, un tempo il Circolo degli Artisti, e si arrivava fino al Trenta Formiche, quindi facendo tutta via Casilina Vecchia. E Sì. E quindi questa è stata una prima tappa, poi dopodiché siamo arrivati ai teatri di cintura, siamo arrivati al Quarticciolo che inaugurava l'anno scorso la nuova stagione dopo aver superato le questioni di bando, di questioni anche legate alla veridicità della vittoria del banco, del bando e tutto questo, e quindi è stata proprio una festa aprire praticamente la nuova stagione del Teatro Quarticciolo con la passeggiata che partiva addirittura da Tor Tre Teste, quindi c'erano 100 persone circa che attraversavano tutto il parco di Tor Tre Teste fino ad arrivare al Quarticciolo, quindi questa è stata anche ed era settembre, quindi una bellissima giornata e anche la scoperta di un parco che diciamo non tutti conoscono. E il bilancio per me è molto interessante perché diciamo anche e soprattutto l'unione con Irene e con Ottavo Colle, perché diciamo che c'è una specie di progetto più ampio rispetto a questa mia passeggiata, che è quella di immaginare appunto Pasolini che continua a passeggiare per le strade di Roma, quindi unendo alla materia insomma, che tratta Irene, che è la sociologia urbana, l'archeologia, ai versi, praticamente sia anche per me è un arricchimento totale e anche per chi partecipa a queste passeggiate. Quindi il bilancio con l'incontro di Irene è molto positivo. Allora, ricordiamo l'appuntamento Pasolini su Monte Testaccio, archeologia, poesia e memoria. L'appuntamento è a Via Galvani 18, nel quartiere di Testaccio, il prossimo Esatto. 3 marzo. Ci dai, allora, Tony, in chiusura gli orari e anche i riferimenti web per saperne di più. E allora, sicuramente guardate la pagina di Ottavo Colle per scoprire tutte le passeggiate che organizzano e poi la prenotazione va fatta entro il 1° di marzo, quindi siete in tempo, a prenotazioniottavocolle@gmail.com. Vi ricordo che salgono soltanto 30 persone, ci sono ancora posti e niente, l'appuntamento è chiaramente alle 14:45 perché alle 3 saliamo e si può stare soltanto un'ora. Benissimo. Penso di aver detto Bene. Tony, io ti abbraccio, ci si sente presto. tutto. Ti abbraccio forte anch'io e vi aspetto sul Monte dei Cocci. Bene. A presto. Ciao. Ciao Fede, ciao.